Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. A un mese di distanza dalla sentenza della Corte di Strasburgo che ha condannato l'Italia per il mancato riconoscimento dei diritti delle coppie gay, oggi per l'antologia estiva di Essere Avere torniamo a parlare di pubblicità e istanze sociali, ricordando lo spot che per la prima volta in Italia ha mostrato una coppia di genitori omosessuali. Al di là della rivendicazione sul tema, un segnale molto concreto della rivoluzione che sta attraversando la comunicazione di marca. Sono finiti i tempi dell'esaltazione del prodotto, al consumatore va offerta la condivisione di uno stile di vita. Ecco perché ci colleghiamo così al tema successivo. Sono fuori tempo massimo le pubblicità sessiste lungo le strade, alle quali anche il Comune di Roma ha deciso di dichiarare guerra. Sono le pubblicità che sfruttano il corpo femminile per promuovere di tutto, dal caffè ai sigillanti, e ci fanno riflettere sull'uso dell'immagine femminile in pubblicità. E poi spazio al colore del 2015 che vi avevamo annunciato per tempo, il Marsala, e alla tendenza New Normal. Hipster, addio, basta barba e risvoltini, parola d'ordine, ordinarietà. Bisogna avere pazienza. Ci vuole tempo. Dobbiamo fare un passo alla volta. Ma magari invece no. Sentite in sottofondo, ha fatto molto parlare di sé, è il nuovo spot Vodafone che ritrae per la prima volta nella pubblicità italiana una coppia di mamme. Le coppie gay avevano già fatto capolino in altre campagne, da Ikea a Findus, ma è la prima volta che viene raccontata, per così dire, una coppia di genitori gay, due madri dello stesso sesso. Al di là della rivendicazione sul tema, dicevamo poco fa, è un segnale a nostro avviso importante di come anche la pubblicità commerciale si stia facendo carico di tematiche sociali, nel segno di un salto di qualità verso una comunicazione più inclusiva. Ne abbiamo voluto parlare con un grande esperto, sia di comunicazione commerciale che sociale, Alberto Contri, presidente di Pubblicità Progresso. Il passaggio di qualità era di buona qualità anche quella di prima, vuol dire magari quella spettacolare o quella che faceva leva più sulle caratteristiche del prodotto. Diciamo che oggi si fa molto più riferimento a argomenti di carattere sociale che potrebbero anche essere controversi, perché non è mica detto che la questione della famiglia gay sia condivisa da tutto il popolo italiano, magari metà la pensa in un modo, metà la pensa in un altro, però il fatto di cavalcare queste istanze che sono oggetto del dibattito nella società comune è un fatto che interessa le aziende commerciali, perché è come se loro dicessero: io ti faccio partecipare a questa discussione e quindi ti includo. Effettivamente l'aggettivo inclusivo ci sta bene, quindi al di là del giudizio di chi può essere pro e chi può essere contro, il fatto di trattare questi temi che in alcuni casi vengono viste come grande innovazione o come vittoria di una parte, in altra parte vengono viste con orrore, perché dice come adesso si propone un modello di famiglia che... In realtà, diciamo, ci sono sempre più aziende attente alla cosiddetta responsabilità sociale d'impresa che, oltre che parlare dei loro prodotti e dei loro servizi, in realtà li allargano ad un campo più ampio. Per esempio, nel campo di una campagna di cui ci stiamo occupando adesso, come Pubblicità Progresso, la campagna sulla parità di genere, ci sono molte aziende di gran nome come la Procter & Gamble, la Pantene, la Dove, che propongono argomenti che hanno a che fare con la parità e la conciliazione dei tempi, proprio per dire: noi siamo con voi donne, promuoviamo la vostra battaglia per la parità, e quindi si augurano che poi loro siano riconoscenti nei confronti di questo marchio. È anche un modo per i brand per dire: ok, mi siedo a tavola con te e parliamo insieme degli argomenti di discussione della vita, così? Certamente, poi ci sono quelli che ritengono che determinati argomenti, come questo in particolare, siano addirittura delle battaglie da sostenere, e quindi a un certo punto l'azienda si prenderà la sua responsabilità, perché in questo caso, per una campagna che divide così, per un argomento che divide, si prendono la responsabilità di apparire innovativi da un lato, ma di non piacere a un'altra parte della popolazione. Quindi sono atteggiamenti interessanti e anche un po' rischiosi in termini di efficacia. Trovi che mai come in questi tempi ci siano dei territori di contiguità tra la comunicazione sociale e quella commerciale? Assolutamente sì, dicevo, oramai su un sacco di tematiche, per esempio vogliamo solo pensare alla comunicazione delle automobili, che oggi come oggi l'80% è sull'automobile che risparmia carburante oppure risparmio energetico, quello sono frutto di anni e anni di campagne di carattere ambientale che hanno fatto del problema della scarsità, che è uno dei problemi di quali stiamo andando incontro tutti quanti, perché c'è meno lavoro, c'è meno energia, c'è meno acqua, c'è meno ossigeno, ci sarà meno di tutto. E allora l'azienda commerciale che ti propone l'auto che risparmia, l'auto che non inquina, vedete che stanno facendo propri e stanno fondendo bene o male la comunicazione sociale con quella commerciale. Abbiamo, dopo 22 anni, riscritto il regolamento per la pubblicità della nostra città. Io mi sono anche preso da giornali improbabili il titolo di bacchettone, perché ho detto e abbiamo scritto nella delibera che non devono esserci immagini sessiste e il corpo della donna non deve essere associato a un valore commerciale. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure. Quelle che abbiamo appena ascoltato erano le parole del sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ha annunciato il giro di vite per le affissioni pubblicitarie nella capitale, dichiarando guerra alle immagini sessiste, discriminatorie o degradanti contro gli stereotipi di genere. Una decisione che altre città in Italia, ma non solo, hanno adottato all'insegna di una sensibilità che su questo tema va allargandosi a livello sociale, istituzionale e commerciale anche. Vorrei sottolinearlo perché anche nel mondo della comunicazione e dell'impresa l'asticella sulle immagini lesive della dignità femminile si sta alzando. Ce lo conferma Daniela Brancati, che è la presidente della giuria del premio Immagini Amiche. Assolutamente sì, e per fortuna. Pensate che le città che hanno sottoscritto con delibera di giunta o di consiglio la risoluzione del Parlamento europeo del 2008 sul marketing e pubblicità rispetto alle donne sono molto più di 100. Questo è molto importante perché noi dobbiamo sfuggire dalla doppia tentazione. La tentazione di scrollare le spalle e dire vabbè, ma in fondo che fa? E l'altra, altrettanto pericolosa, che è quella di censurare. Qua si tratta invece di fare delle politiche attive di rispetto nei confronti delle donne. Nel mondo creativo della pubblicità e nel mondo aziendale, che poi è la committenza delle campagne, vale lo stesso discorso? Io dico di sì, ci sono naturalmente alti e bassi come in tutte le cose della vita, però noi abbiamo visto quest'anno con gran piacere le campagne della Procter & Gamble, per esempio, che sono state premiate, o quelle di Assobirra. Immaginate che la birra un tempo era chiamami e sarò la tua birra, no? Quindi l'identificazione totale fra la donna e il prodotto. Quest'anno invece abbiamo avuto una pubblicità deliziosa come questa in affissione mobile della Sobirra, che ti fa vedere una donna normale con le sue debolezze e i suoi punti di forza. Noi non chiediamo nient'altro, vogliamo soltanto il rispetto dovuto a una persona normale, né bella né brutta né intelligente, nemmeno normale, come qualunque di noi. E soprattutto non associato alla vendita di qualsiasi cosa, insomma, come certo. Veicolo di promozione per qualsiasi cosa. Certo, io penso che questo le grandi marche in particolare l'abbiano un po' capito. sono rimaste delle sacche di, diciamo, indecenza, alle volte a livello locale, spesso perché sono campagne che vengono fatte, diciamo, in casa, no? Senza grandissime professionalità creative. Però penso anche che quando noi vediamo la pubblicità delle automobili, che per anni e anni è stata, la pubblicità si identificava l'auto con la donna, quindi il prodotto con l'immagine femminile, punto e basta. Adesso le automobili puntano a far notare le caratteristiche tecnologiche, le novità. Quindi c'è un salto di qualità importante, quando non per esempio di creatività vera e propria, come nel caso della Fiat, della 500X, che ha fatto tanto ridere tante donne, meno gli uomini, perché quando tocchi la virilità improvvisamente il senso dell'ironia viene meno. Non solo le immagini, voi alzate l'asticella dell'impegno e della call to action, per così dire, e ponete l'accento anche sul linguaggio sessista. Certamente, perché molto spesso in questi anni è stata identificata la nostra protesta, nostra come di tanti altri, come una protesta un po' bacchettona, di quelle che non vogliono vedere il nudo, ma non è così, non c'entra niente. Il problema del nudo è soltanto un piccolissimo pezzo di un problema molto più ampio che si chiama per l'appunto rispetto. Allora, il linguaggio sessista fa parte dello stesso quadro, dello stesso problema. Io scherzando tempo fa dicevo, sono stata nominata 10 anni fa commendatore e non commendatora, oppure negli anni 90 direttore di testate nazionale e non direttora, e tutt'oggi mi pare che la legge dell'ordine non preveda la figura della direttora in quanto tale. Ecco, che cosa sta a significare il linguaggio che non si declina al femminile? Significa che tu sei un'eccezione, accettata in quanto eccezione. Se invece le donne fossero di più nei posti apicali, non sarebbero più l'eccezione, sarebbero la norma e si dovrebbe necessariamente declinare il nome. Allora, il linguaggio sessista significa questo, significa far notare alle donne che sono, siamo delle intruse. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo, e sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo, e poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti, dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba. Hi, my name is Stereo Mike. Citazione cult è quella del Diavolo Veste Prada quando si parla di colori e tendenze. Sapete qual è il colore del 2015? Marsala, un rosso molto caldo, raffinato come il famoso vino liquoroso. È stato decretato dal Pantone Color Institute. Pantone è la grande azienda americana, massima autorità mondiale nel settore dei colori, fornitrice di standard per l'intero settore del design. Ogni anno, attraverso l'istituto, propone una nuance diversa, il colore dell'anno appunto. Ne abbiamo parlato con Sara Azzone, che è la direttrice della scuola di moda dell'OIED, l'Istituto Europeo di Design. È un colore che è piuttosto distante dal colore dell'anno del 2014, e come dice appunto il Pantone Color Institute, dovrebbe essere un colore che stimolerà, arricchirà la mente, il corpo e l'anima, quindi è un colore che parlerà a una parte molto importante del nostro corpo. e come appunto dicono dovrebbe emanare una grande sicurezza e stabilità, quindi i presupposti e gli auspici sono assolutamente positivi. Dal cinema dei buoni sentimenti allo stile normcore nella moda, la normalità diventa cool. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. 1, 2, 3, 4, 5. Focus sui trend. Con il film Manifesto Boyhood, pluripremiato ai Golden Globes 2015, che racconta la vita di un ragazzo americano dagli 8 ai 20 anni e le riprese sono durate davvero 12 anni, introduciamo il tema di questa settimana. Parliamo di New Normal, la tendenza che fa della normalità, della riscoperta dell'ordinario la propria parola d'ordine. Hipster addio, hanno scritto in molti, arrivano gli anni della normalità, dal cinema dei buoni sentimenti appunto allo stile normcore nella moda, dalla moda, dai selfie al naturale senza trucco anche per le celebrities, fino ai modelli culturali di riferimento. Insomma, la normalità è cool. I critici parlano, i detrattori di questa tendenza parlano di nuova mediocrità, i sostenitori invece di nuova autenticità. Per capire allora chi ha ragione, ci facciamo aiutare da Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno. Allora, da dove partiamo? Allora, partiamo innanzitutto, come spesso accade, dalla parola, dalla definizione, in particolare quello che hai detto poc'anzi, normcore. Che cosa vuol dire? È uno stile che riguarda moda, ma anche stili di comportamento di vario genere. È l'opposto di hardcore, quindi è uno stile che ha il norm al centro, quindi la normalità. È uno stile che non è per niente sexy, non è estremo, è fatto di capi dai colori tendenzialmente neutri o comunque non accesi, capi senza stampe, senza marchi soprattutto. Quindi ad esempio è uno stile che non ha l'ansia dello status, distrugge un po' tutte quelle che sono state le cose che ci ha insegnato la moda negli ultimi anni, quindi è uno stile al di là delle tendenze, quindi non rispetta non gli interessano proprio le tendenze stagionali, è uno stile che non vuole apparire, alcuni hanno parlato di estetica anestetica, che insomma è un po' una contraddizione in termini, ma è esattamente quello di cui si tratta. Questa autenticità, Paolo, è vera o è di facciata secondo te? È un'autenticità che viene da un desiderio molto autentico delle persone di raffreddare un po' quelle che sono le tensioni che magari arrivano dai media, arrivano dalle informazioni sulle prime pagine dei giornali, quindi è uno stile che è una sorta di reazione normalizzante a tutto l'eccezionale invece che troviamo continuamente nelle informazioni che ci arrivano dai giornali, dal web, dalla radio, dalla televisione. Ci sono dei brand di riferimento? Beh, sicuramente un brand che a livello internazionale fa del normcore la sua bandiera è Muji, sia per quello che riguarda la casa, quindi mobili chiari, colori neutri, o piccoli oggetti semitrasparenti. Addirittura una cosa molto buffa che ha fatto Muji poco tempo fa è un'app che serve per dormire. Ci sono dei suoni che ti accompagnano nel sonno, nel riposo, anche solo nel pisolino, quindi suoni di natura oppure anche suoni artificiali che tu ascolti e ti addormenti. La sound machine in versione app. Esattamente, esattamente. Poi chiaramente con i prodotti correlati che servono, insomma, piccoli cuscini multiuso. Certo. Un altro brand sempre giapponese, che è proprio un emblema del Nordcore, è Uniqlo. Anche se Uniqlo è un brand molto colorato, è completamente senza caratterizzazioni estetiche estreme. Capi molto semplici che non possiamo nemmeno definire basic, perché il concetto di basic è comunque molto legato agli anni 90. Sono dei piccoli elementi di biancheria intima, di capi assolutamente combinabili, che possono essere usati come complemento oppure anche per fare un total look, se vogliamo. Uniqlo in Italia non c'è, non ci sono i negozi, non è ancora sbarcato nel nostro paese, però è una delle mete di shopping a Londra, ad esempio a Parigi, per gli italiani, me lo confermi? Esattamente, esattamente, quindi è un po' come, sì, come poteva essere Abercrombie negli Stati Uniti qualche anno fa, adesso si parla molto di Uniqlo. Sicuramente anche negli Stati Uniti c'è un marchio che è un riferimento del Nordcore, che è Gap, che ha fatto del dress normal anche il tag di una campagna pubblicitaria recente. Sempre negli Stati Uniti non dimentichiamoci nemmeno di Levi's, che negli ultimi anni ha puntato tutta la sua comunicazione sul, e anche la produzione poi di capi, sul tema del commuter, quindi del pendolare, e cosa c'è di più normale, di più quotidiano della vita del pendolare. Al di là della moda, Paolo, gli altri riferimenti di questa cornice new normal quali sono? Beh, mi piacerebbe citare un film che è Her di Spike Jones, Lei, il film con Joaquin Phoenix e Scarlett Johansson, che era presente solo in voce, diciamo con la Ramazzotti nell'edizione italiana. È la storia di questo ragazzo normale, di questo signore normale, che si innamora di un sistema operativo, quindi si innamora sostanzialmente della voce che esce dal suo computer e dai suoi strumenti digitali. Ok, ci sembra fantascienza, ma sicuramente anche noi oggi parliamo con gli assistenti vocali dei nostri computer, dei nostri tablet, dei nostri telefoni, quindi è una fantascienza molto presente. Dal punto di vista estetico, dal punto di vista dello stile, era rispettato questo pensiero anche nel film, perché non c'erano scenari da Gattaca o scenari da 2001 Odissea nello spazio. Una normalità molto quotidiana, uno stile fatto di colori neutri, un design sia della casa sia dell'arredamento e dell'abbigliamento molto comune, molto semplice, e soprattutto delle atmosfere per niente drammatiche, nonostante, anche se vogliamo, il tema possa essere molto attuale e possa scatenare anche dei dibattiti molto accesi. Ecco, tutto il film è proprio giocato su questo filo di una normalità che è sicuramente non molto lontana dalla nostra vita quotidiana. Penso anche alle icone, alle nuove icone della cultura pop, parlando di serie TV, Girls, rispetto a Sex and the City, c'è tutto un mondo che separa queste due rappresentazioni. La stessa autrice di Girls, insomma, propone un modello molto diverso. Esatto, ma anche una serie TV come ad esempio Looking, che racconta la vita di questi tre ragazzi nella comunità gay di San Francisco. Anche lì, dal punto di vista estetico, le scelte sono decisamente normcore e raccontano la vita quotidiana di questi ragazzi, e sembra veramente di assistere in una sorta di reality show a quello che loro fanno tutti i giorni. Grazie a Paolo Ferrarini per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Il consumautore. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite per la riflessione finale. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Ben trovata, Maria Luisa. Marketing e comunicazione sono sempre alla ricerca di nuove definizioni, nuovi concetti che esprimano le piccole e grandi trasformazioni in atto nel mondo dei consumi. Quella di oggi mi piace moltissimo, Francesco, diciamola subito. È la life upgrade, è l'idea che ormai davvero i consumatori hanno lasciato alle loro spalle un mondo di capricci, anche perché spesso non possono più neanche permetterseli, ma anche ad esempio il mondo usa e getta. E la life upgrade è l'idea di un miglioramento progressivo nel proprio standard di vita, di consumo, ma anche la creazione di aspettative intelligenti che possono maturare nel tempo. Quindi è proprio come nei sistemi sistemi informatici dove l'upgrade è aumentare, ampliare la memoria e le performance, ed è una cosa che avviene nel tempo. Quindi anche nella relazione con gli acquisti, con i consumi, c'è, dimmi se sbaglio, una maggiore profondità, c'è molta più sostanza di un tempo. C'è molta più sostanza, e la cosa davvero interessante è che questo ci ripropone una grande chiave, che è quella della sostenibilità, ma partendo da nuovi presupposti. Un tempo si diceva bisogna essere sostenibili e quindi consumare in modo, in alcuni casi, anche frugale. Quindi invece le persone sono ancora più avanti, per cui riescono a interpretare le loro esigenze, che sono di qualità, di durata, parole che sono state un po' dimenticate negli ultimi anni, e che invece privilegiano ad esempio le brand, le marche che ragionano in questo modo. Faccio un esempio su tutti, ma che ci ha molto colpito, e che è il progetto Worn Wear di Patagonia. Patagonia è da sempre una brand di abbigliamento americana che lavora sulla sostenibilità. Worn wear vuol dire abbigliamento indossato, quindi pensare ai capi che tu hai acquistato e invece di spingerti a comprarne di nuovi, aiutarti a ripararli. Quindi è un servizio di riparazione che aiuta i consumatori a dare più importanza e profondità al proprio consumo. Chi ragiona in questi termini dal punto di vista aziendale acquisisce anche un fattore competitivo, e anche questa è la svolta. Questa è la svolta, perché dai credibilità alla tua brand, perché diventi compagno di vita del tuo consumatore, magari perdi qualche atto di acquisto, ma lo recuperi poi nel tempo. E anche addirittura nel passaggio generazionale, perché oggi le famiglie, come sappiamo, ragionano anche molto più insieme sulle brand da utilizzare. Grazie, a domenica prossima. Grazie Maria Luisa. E grazie anche in regia a Pietro Lacorte. Pagina programmi di Radio 24 Essere Avere, per riascoltare e scaricare queste e le altre puntate la trovate anche sulla nostra pagina Facebook, insieme a tutti i contributi aggiuntivi. In attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 15, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.